100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Proviamo a intervenire nel dibattito che sta contrapponendo regioni e governo centrale quanto a fondi destinati alle regioni stesse. Proviamo a farlo però prendendolo da un altro punto di vista. Nel paese del benaltrismo, infatti, le regioni del nostro mezzogiorno soprattutto dovrebbero spiegarci perché, accanto alle critiche al governo per la riduzione dei fondi, non sono riuscite a spendere nel quinquennio 2007-2013 parte dei fondi che l'Unione Europea aveva destinato anche al nostro sud. Si chiamano fondi di coesione e sono quelli che la Commissione Europea dà alle aree più depresse dell'Unione Europea stessa. L'obiettivo, infatti, è ridurre le disparità economiche e rilanciare lo sviluppo. L'Italia non si è piazzata male quanto a fondi. Era terza per destinazione, 28 miliardi. Prima di noi solo la Polonia e la Spagna hanno avuto più soldi. Ebbene, visto che il prossimo 31 dicembre scadono i termini per rendicontare l'impiego dei fondi, scopriamo che 7 miliardi non sono ancora stati utilizzati su 28 miliardi appunto. Questo vuol dire che per riuscire a utilizzarli si dovrebbero impiegare praticamente 100 milioni al giorno da adesso fino al prossimo 31 dicembre, 75 mila euro al minuto. Prima di protestare con il governo nazionale, non sarebbe forse il caso per queste regioni di mettersi una mano sulla coscienza e capire come mai, nonostante non manchino i dirigenti, non si riescano a utilizzare i soldi che ci dà Bruxelles? I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Giornata di dati importanti per fotografare la situazione economica del nostro paese. Cominciamo da quelli europei. La Commissione è un po' più ottimista sulle prospettive di crescita rispetto a maggio e ha rivisto al rialzo le stime per l'anno prossimo, portandole dall'1,4 all'1,5%. Per quest'anno il PIL dovrebbe crescere dello 0,9% contro una prima previsione che si fermava allo 0,6%. La crescita, dicono a Bruxelles, si fa più sostenibile. Ma la Commissione europea è più cauta sui conti pubblici. Nel 2016 stima che il deficit scenderà al 2-3% del PIL, contro un'attesa del governo che si ferma con più ottimismo al 2-2%. Quello scarto dello 0,1%, che vale più o meno 1,6 miliardi, potrebbe diventare oggetto di contenzioso tra Roma e Bruxelles in fase di valutazione della legge finanziaria. La ventata di nuovo ottimismo è stata alimentata anche dall'Istat, che ha annunciato appunto che il PIL quest'anno dovrebbe crescere dello 0,9% per proseguire l'anno prossimo con un più robusto 1,4% da replicare anche nel 2017. Importante nella rilevazione dell'Istat il dato sugli investimenti, che nel 2015 registreranno un primo incremento complessivo superiore all'1%, per poi decollare nel 2016 al 2,6% e l'anno successivo al 3%. Tutto questo anche grazie alle misure previste nella legge di stabilità. A crescere quest'anno sarà anche la spesa delle famiglie, più 0,8%, un incremento timido ma importante, dovuto al miglioramento del mercato del lavoro e del reddito disponibile. A questo poi va aggiunto che la Confindustria, tramite il suo centro studi, ha diffuso un'analisi dell'andamento dei settori industriali annunciando che l'Italia ha cominciato a risalire la china, anche se con un passo ancora lento e assai disomogeneo tra i suoi comparti. Ma ciò che più conta è che questa volta non sembra più una falsa partenza, come era accaduto più volte in passato, ma proprio per questo serviranno misure di politica industriale e fiscale che abbiano come bussola proprio la crescita. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.